desideri chiusi dentro te. Prima o poi questa lotta tu la vincerai. Sei quello che tu veramente sei. Dai, doveri perderti non puoi. Così come sei, così mi vai. Chiusi vai.